di una ricerca che stiamo facendo a scuola. Sì, ho capito. E voi siete qua di cena? No. Già finito. No, secondo lei i giovani come vedono gli quelli con una certa età? Cioè i genitori o i nonni? Insomma dipende, cioè secondo me non è che li vedano male. Io sono sempre speranzosa nei giovani, almeno secondo il mio punto di vista. Cioè il rapporto è anche abbastanza socievole, cioè penso che anche ci possa essere uno scambio tra quello che cioè era la nostra gioventù e quella che è la vostra. Ecco, beh, i cambiamenti sono tantissimi. Fondamentali sono una diversa, diciamo, libertà, perché noi eravamo molto più legati, voi siete molto più giovani, avete molto più possibilità, diciamo, di comunicare, di avere, anche se talvolta può essere anche negativo, perché voi vi isolate coi telefonini e cosa, invece noi avevamo molta più comunicabilità, diciamo, interpersonale, ecco. E invece il contrario, come i genitori vedono i giovani? Io sono sempre stata positiva, per cui io li vedo abbastanza bene. Avete degli eccessi che non posso accettare, perché chiaramente sono di un'altra generazione e per cui va considerato anche quello, insomma, secondo il mio punto di vista. Grazie mille. Figurati. Grazie. Buona giornata. Grazie.